mistero, è un mistero, questo sentimento che mi lega a te. Io vorrei che fosse amore, ma non credo che lo sia. E non è solo un capriccio, e non è una simpatia. Mistero, è un mistero. Sarà che tu rassomigli troppo a me. Sempre gente intorno a te, ma di amici non ne hai. Sei solo come me, ma non lo sai. Vivere per vivere da soli non si può. Forse tu lo vuoi, io no. Con un cuore e una chitarra che sono tutto quel che ho. Dovunque tu vorrai, verrò. Mistero, è un mistero, ma ha più fascino che non l'amore vero. Mi domando fino a quando durerà. Mistero, vivere per vivere da soli non si può, forse tu non vuoi, io no. Con un cuore e una chitarra che sono tutto quel che ho, dovunque tu vorrai, verrò. Mistero, è un mistero, ma ha più fascino che non l'amore vero. Mi domando fino a quando durerà un giorno, non ho più mistero.